Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia Jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. Il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il Colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese: «Benvenuto a Roma. Posso esservi utile in qualche modo?» È il 5 giugno del 1944. Il generale Clark e le sue truppe sono appena entrate a Roma. Il racconto del comandante americano con la sua fila di mezzi armati smarriti per la città eterna e un prete che con gentilezza gli offre indicazioni stradali evoca un'epoca e delle atmosfere da neorealismo. L'arte italiana dei tempi, dell'improvvisazione e dell'arrangiarsi sembra avere contagiato anche l'efficientissima macchina militare americana. Sono gli anni in cui il nostro paese sente che esiste una possibilità di ricominciare sulle ceneri della guerra. La gente si dà da fare, l'aria che si respira è elettrica, sa di futuro. Rinasce la voglia di creare e anche l'arte della satira, strozzata nei decenni precedenti dal fascismo, ritrova la propria libertà. Ha un grande successo il bisettimanale Marco Aurelio, sulle cui pagine scrive e disegna il giovane Federico Fellini. Si ricomincia a vivere e con un'anima finalmente sollevata dai pesi della guerra si inventano mille modi per sbarcare il lunario. Lo stesso futuro grande regista si inventa dei lavori. Oltre che sul Marco Aurelio scrive gag e scenette per la radio. Insieme ad altri amici caricaturisti apre un negozio di ritratti e caricature per i soldati americani, che possono così spedire alle mogli e alle madri rimaste a casa i loro ritratti. Si chiama The Funny Face Shop. Si narra che Roberto Rossellini, incuriosito da questo strano atelier, un giorno fa visita a Fellini e che dopo l'incontro i due cominciano a collaborare al cinema. La voglia di incontrarsi e di confrontarsi sale come una febbre tra gli artisti che occupano con le loro idee la Roma liberata. Qualsiasi luogo va bene, purché si possa dare sfogo ai propri sentimenti e alle proprie idee. Farmacia Carinegara in piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma, dove c'erano i maggiori giornali, e i grandi scrittori passavano di lì a prendere i bicchierini, c'era il celebre bicchierino della china per digestivo, oppure il rabarbaro, oppure i fiori, il tè ai fiori d'arancio. Ma era una scusa quella, era per ritrovarsi, era una specie di club, si dava un appuntamento, mancavano i tavolini di fuori e poi sarebbe stato una specie di caffè. E hanno scritto il loro primo spettacolo negli scantinati di questa farmacia. C'era Monicelli, c'era Scarpelli, passava De Tuddo, passava Fellini, passavano i Marcello Marchesi. Ecco che tempi artistici erano quelli. Senza fatica, le farmacie diventavano dei caffè letterari e nei loro scantinati si scrivevano commedie. A ricordarlo è l'attore Enzo Garinei. Parla di suo fratello Pietro Garinei e di Sandro Giovannini. Pietro Garinei e Sandro Giovannini, i nostri protagonisti di oggi, a Destini Incrociati. Nei sottoscala della farmacia della famiglia Garinei, Pietro e Sandro, da poco ventenni, scrivono il loro primo copione. Sono le 7 e tutto va bene. Una commedia satirica che narra dei coprifuoco durante i bombardamenti su Roma. La pièce non andrà mai in scena, ma serve per farli conoscere nel mondo del teatro. È così che nel 44 nasce la premiata ditta G&G, Garinei e Giovannini. Mentre un paio di metri sopra le loro teste vengono venduti infusi e decotti, le loro teste partoriscono il primo di una serie infinita di lavori che hanno fatto la storia del teatro e della televisione, e quindi anche del nostro paese. Inventano il genere della commedia musicale all'italiana e nella loro lunghissima carriera produrranno ben 49 copioni, 10.000 pagine scritte, 16 milioni di parole. Li hanno descritti come due artisti che marciano con la perfezione degli orologiai svizzeri, specialisti di scatole cinesi, due abilissimi mugnai che con grande alacrità muovono le luccicanti pale del donchisciottesco mondo della rivista italiana. Enzo Biagi ha scritto di loro: che nomi nelle locandine dei loro spettacoli. Wanda Osiris, una leggenda che dialogava con Alberto Sordi nella parte agra di un guitto da avanspettacolo. Le gemelle Kessler, dimostrazione vivente delle infinite possibilità dei cromosomi. Delia Scala, vibrante, gentile, limpida. E Walter Chiari, quanto talento buttato con generosa incoscienza alle platee. Un Gino Bramieri così bravo che non ho mai capito perché il cinema non gli abbia offerto anche ruoli drammatici. E poi l'Aldo Fabrizi di Rugantino e il Modugno di Rinaldo in campo. A tutti Garinei e Giovannini hanno offerto la grande occasione. Non hanno mai sbagliato un copione o una regia. Hanno sempre rispettato il pubblico, hanno segnato i nostri palcoscenici e anche il nostro costume. Ci sarà sempre qualcuno che nel dirigersi verso la stazione Termini fischietterà "Arrivederci Roma" o qualche giovane innamorato che si improvviserà un improbabile Rugantino cantando "Roma non fa la stupida stasera" per fare colpo sulla sua fidanzata. Garinei e Giovannini, agli inizi degli anni 40, si incontrano e si conoscono perché entrambi sono giovani redattori sportivi di due giornali, la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Tra i suoi infiniti aforismi, Oscar Wilde ebbe modo di dire che la differenza fra giornalismo e letteratura è che il giornalismo non è leggibile e la letteratura non è letta. In verità, Garinei e Giovannini appartengono invece a quella numerosa stirpe che passò con tutta naturalezza dal giornalismo alla scrittura artistica e molti dei loro pezzi sportivi sono piccoli gioielli di arguzia e umorismo. Era l'epoca, d'altronde, dove spesso le notizie arrivavano frammentate e da luoghi lontani e il giornalista era più libero di romanzare e di metterci del suo. Pietro e Sandro, amici, ma di giornali concorrenti, non mancavano di farsi scherzi e imboscate sulle notizie, o presunte tali, come ricorda Pietro Garinei. Noi facevamo i giornalisti, io ero redattore della Gazzetta dello Sport e Sandro era redattore del Corriere dello Sport, quindi due avversari. E ci facevamo degli scherzi un po' pericolosi. E allora una volta Sandro mi fece trovare su un tavolino così la notizia che il trottatore Muscletone, grande campione trottatore, era morto. E io come un babbaleo ho mandato questa notizia al giornale a Milano, che è uscita con questa notizia in prima pagina, non era vero. Ho fatto una figura terribile. E allora l'ho aspettato al varco. E dopo un po' di settimane al CONI, Comitato Olimpico, sì, dove noi andavamo cercando le notizie, in un angoletto ho nascosto un fogliettino in cui c'era scritto che il corridore olandese Schultz aveva battuto il record mondiale dell'ora che era detenuto da Fausto Coppi. Sandro e Pietro sono due persone molto diverse. Giovannini è vulcanico, sognatore. Garinei è più razionale e strutturato. Ma il loro spirito e la loro leggerezza si sposano come note perfette su un pentagramma musicale. Il loro tono satirico è sempre pungente, attraversa gli anni della fine della guerra come un soffio delicato, ma testimone attivo del paese che si sta trasformando. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bambino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking. Do you? Hey, mambo, mambo italiano. Hey, mambo, mambo italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a siciliano. Hello, kissy, did you? You get happy in the pizza when you mambo italiano. La libertà artistica e di pensiero di Giovannini e Garinei diventa da subito uno dei loro marchi di fabbrica e la loro amicizia si cementa di fronte agli attacchi che devono sopportare i loro primi lavori. Canta Chiaro, il loro primo spettacolo, punta tutto su una satira politica graffiante che denuncia i primi scandali e il ritorno dei poteri di sempre. Ma anche dopo la sua fine, la guerra viene avvertita come un pericolo. Così il testo viene pesantemente censurato. Da pulpiti differenti, anche il loro secondo spettacolo viene attaccato. È una sera fredda del novembre del 1945. A Genova sta andando in scena Sofia So, di Giovannini e Garinei. Anche questa pièce suscita aspre polemiche perché, contrariamente alla precedente, viene giudicata da alcuni reazionaria e accondiscendente verso il fascismo. L'entrata per gli artisti dà su una piccola viuzza. Due uomini si avvicinano e controllano che non ci siano poliziotti in giro. Pietro e Sandro, che stanno assistendo allo spettacolo dietro le quinte, sentono tremare il pavimento sotto i loro piedi. Qualcuno ha lanciato due bombe a mano contro l'ingresso secondario del Teatro Augustus. Garinei e Giovannini non si fanno intimidire. Lo spettacolo andrà avanti con grande successo di pubblico per i successivi 5 mesi. I musicisti e gli attori della commedia fanno quadrato intorno a loro e nessuno lascia il proprio posto, malgrado le minacce di ritorsione. La protagonista principale della rivista, in particolar modo, non è certo una donna che per carattere è facile alle rese e alla paura. La mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori. Via, canto. Malla, mamma Roma. Fior de gaggia. Quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia. Anna Magnani è l'attrice che tiene a battesimo le prime 2 opere di Giovannini e Garinei. Quando le fecero leggere il copione di Cantachiaro, scritto da questi 2 giovani e illustri sconosciuti, si dice che urlò di felicità. Finalmente qualcosa di davvero forte e insolito. Dopo la Magnani, un'altra donna leggendaria prende per mano i nostri 2 commediografi, aiutandoli a diventare i re incontrastati del teatro di rivista. Si chiama anche lei Anna, ma incarna una figura artistica che è agli antipodi di Mamma Roma. Se la Magnani consacrerà la propria carriera interpretando personaggi sanguigni che combattono con i pugni e coi denti in realtà difficili, Anna Menzio canterà e reciterà sempre in un'aria ovattata, fatta di polvere di stelle. Il suo nome d'arte si rifà a Osiride, la divinità egiziana, dea della luce. Il suo nome è Wanda Osiris. Wanda Osiris rappresenta l'archetipo della star degli anni 40. Di lei si dice che tutto fosse favoloso: i vestiti, i profumi, la crema che usava, persino la sua cipria dorata. Era un'epoca in cui non c'erano 1000 riflettori e telecamere puntate sulla vita privata degli artisti, e questi per il pubblico venivano ed esistevano solo sul palco. La loro meta-esistenza li rendeva più che famosi mitologici. Gli spettacoli di rivista di Garinei e Giovannini sono grandiosi, ambiziosi e costano cifre pazzesche. Domenica e sempre domenica comporta delle spese che vanno oltre i 45 milioni di lire. Ci sono attori che entrano in scena su macchine e moto scintillanti, mentre la Osiris, avvolta in una pelliccia di cincillà, esce come Venere da un'enorme conchiglia di madreperla. I costi dello spettacolo suscitano parecchie polemiche in un'Italia che per gran parte vive ancora nella miseria del dopoguerra, ma in realtà i ricavi doppiano abbondantemente le spese e Domenica e sempre Domenica diventa la prima rivista italiana esportata all'estero. È domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson né sirene né motori. Si sveglia la città più dolcemente, persino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì. Ha scritto sul pollaio buon riposo, ritorno lunedì. Tutti i grandi nomi dello spettacolo teatrale ora vogliono lavorare con la premiata ditta G&G. Ma cosa rende così speciali Pietro e Sandro? Da cosa nasce questa loro alchimia? François Daubigné de Maintenon diceva che c'è un'importante differenza tra l'amore e l'amicizia. Mentre il primo delizia gli estremi e gli opposti, il secondo richiede parità. In realtà, tra Pietro e Sandro esistono entrambe le condizioni. La loro unione vive sulle loro differenze, che si esaltano a vicenda crescendo sul terreno fertile di una sensibilità artistica comune. Armando Trovajoli e Gino Landi, che rispettivamente composero la musica e allestirono la coreografia di molti dei loro spettacoli, li ricordano in questo modo. Garinei e Giovannini, 2 poli opposti, si univano soltanto per i testi, se no uno era bianco e l'altro era rosso o era nero. Pietro così conformista, così molto molto stiff. Invece Sandro Giovannini, giovialone, giocarellone. 2 personaggi curiosi che però facevano colla insieme. Giovannini era quello più romantico anche, nonostante la figura non te lo facesse pensare, un bambinone in fondo, tenero. Pietro era molto più freddo, molto più distaccato, molto più giustamente inglese. Cordiale, però tenendo sempre a bada la situazione. La creatività picaresca di Giovannini viene organizzata dalla razionalità e dal senso innato per la struttura di Garinei. Come nei matrimoni più riusciti, i due si fidano l'uno dell'altro e questo gli permette anche di lasciarsi andare a litigi costruttivi, come ricorda Enrico Vaime, un autore che ha spesso collaborato con la coppia. Erano diversi ma indispensabili uno all'altro. Naturalmente, come tutte le coppie, litigavano, perché non dirlo, perché fingere una coppia tanto affiatata? No, una coppia vera, quindi con momenti di litigio feroce. E naturalmente nel litigio, mentre Pietro era, diciamo, più formale, più anche più chiuso, come Giovannini, che invece era sbracato, quindi un carattere molto diverso, lo accusava di cose terrificanti, come si usa nelle coppie vere. Il fermento intellettuale della coppia non conosce soste. Il loro rapporto fatto di continui confronti e suggestioni li porta ad alzare sempre l'asticella delle loro ambizioni artistiche. Il teatro di rivista comincia a stargli stretto e il loro desiderio di una continua sperimentazione li porta in radio, dove scrivono e dirigono lo spettacolo satirico La Bisarca, che si basa sull'attualità politica. Non c'è bisogno di dirlo, ma anche questa pièce radiofonica riscuote un enorme successo. Ci sono appuntamenti che un marito non concede alla moglie e viceversa. Però quello settimanale con La Bisarca è ammesso di comune accordo. La Bisarca rappresenta una svolta nel matrimonio tra Garinei e Giovannini. I due uomini che si sono uniti nel nome del teatro leggero italiano si accasano. La Bisarca diventa uno spettacolo teatrale e viene rappresentato al Palazzo Sistina di Roma, che da quel momento diventerà la casa di Pietro e Sandro. In questo luogo nasceranno e verranno rappresentate tutte le loro opere. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Destini incrociati. Oggi, a Destini Incrociati, stiamo raccontando la storia di Pietro Garinei e Sandro Giovannini. I due redattori sportivi a cavallo tra la guerra e il dopoguerra cominciano a scrivere insieme testi satirici nello scantinato di una farmacia. Nel giro di pochi anni diventeranno quelli che più di ogni altro hanno cambiato la storia del teatro leggero italiano. Nel settembre del 51, Enzo Garinei va a New York e rimane strabiliato dai musical di Broadway. In 15 giorni ne vede una trentina. La sua mente, inondata da questo perfetto insieme di musica, canto, drammaturgia, rimane impressionata in modo decisivo. Un pomeriggio telegrafa a Giovannini la sua sconvolgente scoperta. Siamo indietro di decenni, indispensabile un coreografo americano. La rivista italiana, fino ad allora, era un genere che si basava su una sequenza di quadri coreografici, cantati, alternati a sketch comici, in un perfetto equilibrio tra parti recitate dall'attore e apparizioni della soubrette. Garinei, tornando da Broadway, ha invece in mente un nuovo tipo di commedia musicale che parte con un copione teatrale ben preciso, a cui si aggiungono le musiche, le canzoni, i balletti e le coreografie. Di questa trasformazione radicale del teatro leggero italiano ne parla lo stesso Garinei. Ma qua ti dici amore, sì, oh. La commedia musicale ha una trama e la rivista ha un'idea. Sì, sì, è diversa. La commedia musicale ha dei personaggi, certo. E la rivista ha delle attualità. Sandro e Pietro, però, non si limitano certo a importare il modello americano. Il loro respiro, il loro senso del comico e dello spettacolo è tipicamente italiano. I due creano davvero un genere che non ha paragoni nel mondo. Trovaioli ricorda così questo nuovo modo di essere della commedia musicale nostrana. Non ho mai analizzato quello che può essere la fonte del loro successo. Vengono un po' dalla scuola di Galdieri vengono un po' con l'amore per il teatro, forse è la grande passione per il teatro, attingendo a qualche cosa dall'America, dalle continue trasvolate che si facevano in America a vedere assorbire carta assorbente, trasformata con l'intelligenza italica. Giovannini e Garinei trovano la quadratura del proprio cerchio. Capiscono che per il nuovo genere della commedia musicale servono innanzitutto veri attori, eclettici, vibranti. Per la loro trilogia di spettacoli Attanasio Cavallo Vanesio, Alvaro piuttosto Corsaro e Tobia la candida spia, scritturano il mattatore Renato Raschel. Alla sua verve comica vengono affiancate le sonorità delle Peter Sisters, tre notissime cantanti afroamericane mastodontiche che pesano oltre i 120 kg. La loro imponenza e le loro voci straordinarie fanno da contralto alla minuscola e guizzante figura di Raschel. Il tutto è tenuto insieme da un giovane compositore che scriverà decine di spettacoli con la ditta G&G, Gorny Kramer. Gorny è un patito del jazz e la sua creatività è un pozzo senza fondo, come ricorda il coreografo Gino Landi. Scriveva le musiche su un pezzettino di carta, per esempio su il biglietto, sulla bustina dello zucchero del caffè che danno nei bar, no? Sulla bustina dello zucchero lui faceva un piccolo pentagramma, fischiettandolo trovavi al bar che faceva... Poi la dava al copista e la canzone era fatta, insomma, aveva una grande facilità. Al centro degli spettacoli di Garinei e Giovannini ci sono sempre comunque gli attori. Sono loro a incarnare i loro testi e le loro storie. Per questo Sandro e Pietro preferiscono utilizzare chi sa recitare più che cantare e ballare. Ma essendo assoluti perfezionisti, vogliono che chi lavora con loro impari a fare anche quello al massimo del possibile. Molti attori del teatro di prosa e del cinema, come Ernesto Calindri, Walter Chiari, vengono sottoposti a lezioni di ballo e canto estenuanti, al limite della tortura. D'altronde, Garinei e Giovannini chiedono agli altri non più di quello che chiedono a loro stessi. La loro inesauribile creatività è accompagnata da una dedizione al lavoro spasmodica. I due parlano e si confrontano giornate intere, fino a tirar fuori un'idea che ritengano degna di essere messa su carta. Poi ci ragionano su, ognuno per i fatti propri, e ne parlano una seconda volta, cominciando a battere a macchina. Spesso i problemi nascono dal fatto che Garinei preferirebbe seguire la linea che ha dettato Giovannini e Giovannini quella di Garinei. Sandro e Pietro passano le ore a scrivere in quello che viene definito il bunker, l'ex guardaroba del Teatro Sistina che hanno allestito a studio. Gioia Forti, autrice che collaborò a molti dei loro spettacoli, li ricorda così. Il felice bunker cosiddetto, concedeva così poco al benessere questo bunker, proprio per poterci concentrare meglio. Allora, è uno studio senza finestre, tranne un finestrino piccolissimo che dà su un cortile, quindi senza luce, e si sta lì con la luce elettrica d'estate, d'inverno, in agosto, e l'aria condizionata. Non è salubre, per niente. Però... non avendo nemmeno la distrazione di guardare i passanti fuori dalla finestra, si è obbligati al massimo della concentrazione. Giovannini e Garinei passano giornate intere in questa specie di caverna. È poco definire straordinario il fatto che in 30 anni di questa convivenza forzata non ci siano mai stati dei veri momenti di crisi della coppia. La verità è che è un vero miracolo che non si siano ammazzati a vicenda. Il fratello di Pietro, Enzo, se lo spiega così. Si frequentavano pochissimo e questa è la forza forse di poter andare avanti sempre per tanti anni. Fuori ognuno aveva la sua vita, ognuno aveva le sue famiglie, Pietro non aveva figli, Sandro aveva la sua famiglia, aveva tre figli. Raramente l'ho visti fare una villeggiatura insieme, raramente l'ho visti andare a un teatro o a un cinema insieme. Però immancabilmente ogni giorno alle 10 del mattino si incontravano qui al Sistina. Un altro grande fattore di longevità della premiata ditta è la loro duttilità creativa. I due non fanno a tempo a finire uno spettacolo radiofonico o teatrale che già pensano a quello successivo. Immancabile, nel 1955 arriva anche il loro sbarco in televisione. Buonasera, signore. Buonasera. Questo mio buonasera è il primo timido vagito del nostro programma ed è toccato a me di pronunciarlo perché Giovannini, con la banale scusa che lui viene secondo dopo di me in tutti i manifesti per via dell'ordine alfabetico, si è tirato volgarmente indietro. La trasmissione è un gioco a premi importato dall'amata America e si chiama 200 al secondo, simile nel titolo all'originale statunitense, un dollaro al secondo. Ma il vero successo a livello catodico arriva 2 anni più tardi, quando il direttore generale della RAI, Sergio Pugliese, li chiama per ideare un nuovo quiz da realizzare a Roma che bilanci il successo di Lascia ora doppia che va in onda a Milano. Giovannini e Garinei inventano il Musichiere, uno dei programmi che hanno fatto la storia della nostra televisione. Ispirato anche questo al programma americano Lo conosci il motivo? Viene rivisitato e ricostruito dai due autori italiani. Sandro e Pietro, al grido dello slogan «Se sai parlare, sai anche cantare», coinvolgono in ogni puntata un personaggio famoso a interpretare una canzone. Tra le tante performance rimane mitica quella di Primo Carnera, che dall'alto dei suoi 2,05 metri si lancia in una melodia romantica e delicata. Ho il cuore tenero, tenero, tenero, l'animo nobile, nobile, nobile. Sono sensibile, tanto sensibile, che se mi toccano mi metto a piangere, faccio un strillo e chiamo papà! La gioia di creare e l'umiltà con cui si accostano al pubblico rimarranno per sempre una delle chiavi del successo di Garinei e Giovannini. A noi, che viviamo nell'epoca dell'Auditel e del successo necessario agli inserzionisti pubblicitari, non può non toccare il cuore chi faceva la televisione cercando semplicemente di dare del piacere al proprio pubblico. Sentite il ricordo di Pietro Garinei. Mi ricordo con Sandro, e noi dopo ogni puntata del Musichiere c'eravamo divisi la popolazione romana. Io ci avevo dall'A alla M e Sandro dalla M in poi. E la mattina dopo facevamo delle telefonate a questi signori per sapere come era andata la trasmissione, cosa era piaciuto, cosa non gli era piaciuto. Ti invidio, turista che arrivi, ti imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un colpo te trovi fontana de Trevi, che è tutta per te. C'è sana leggenda romana. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di Sandro Giovannini e Pietro Garinei, due mostri sacri della commedia musicale italiana. Dagli anni 40 fino ai 70 inanellano una serie impressionante di successi teatrali e televisivi. Più passa il tempo, più i loro spettacoli vengono considerati come i pilastri e le tappe fondamentali dell'arte italica dell'intrattenimento. Dopo il Musichiere sembra impossibile fare una trasmissione che lo superi in popolarità. E invece Giovannini e Garinei si inventano Canzonissima, che ha un successo di pubblico clamoroso. Uno dei segreti di Sandro e Pietro è stato il portare in televisione la qualità del teatro. A presentare la nuova trasmissione sono infatti Nino Manfredi, Paolo Panelli e Delia Scala. Con la ditta G&G, i presentatori non si limitano a presentare, ma recitano una loro parte e un loro personaggio. Ogni minuto di una puntata di Canzonissima è puro spettacolo. Oggi la televisione lo ignora, il teatro, perciò sembra che lo disprezzi. Una volta c'era proprio una trasmissione settimanale sul teatro, il teatro era seguito, lavoravano in televisione gli attori di teatro, invece oggi lavorano in televisione dei signori che passano per la strada, quindi è tutto un altro mondo. Garinei e Giovannini sono tra i fondatori e tra i massimi esponenti della TV di qualità. con le loro opere hanno dimostrato che la ricetta è semplice. E se qualcuno decide di fare della televisione trash e dozzinale, è consciamente colpevole verso gli spettatori. Sandro e Pietro hanno dimostrato che ci vogliono sudore e fatica, degli autori di talento e degli attori di talento. Non esistono facili scorciatoie. L'onestà con cui hanno sempre affrontato i loro lavori ha fatto sì che tutti gli artisti che hanno lavorato con loro hanno avuto il desiderio di farlo per lungo tempo. Nino Manfredi è tra questi. Agli inizi degli anni 60 Nino è già un attore cinematografico affermato, ma quando Sandro e Pietro gli propongono di tornare al teatro, ci mette meno di un secondo ad accettare. La storia, il personaggio che G e G hanno in mente per lui, è un sogno che si realizza nello stesso attimo. Deve interpretare quella che è la maschera romana per eccellenza. Il popolano sbruffone e arruffone, il rugante. Il rugantino fa tornare sul palco, dopo oltre 20 anni, anche un altro romano doc, Aldo Fabrizi. Recitare in questo spettacolo sarebbe il desiderio di qualsiasi attore della capitale. Testi e musiche sono straordinarie, ma Sandro e Pietro hanno comunque una certa paura che il pubblico non apprezzerà. È una commedia musicale, ma è anche una storia con momenti di alta tragedia. Franca Garofalini, la segretaria storica di Giovannini e Garinei, ricorda così la sera della prima. Mi ricordo alla prima di Rugantino che io per caso andai in palcoscenico e c'erano Garinei e Giovannini che... Giustamente, quando sono le prime due autori, due persone come loro, erano molto in tensione e stavano dietro al palcoscenico sulle scalette, tutti e due, Giovannini che fumava e tutti e due lì vicini che proprio come se sedessero forza pensavano, cioè chissà la fine di questa commedia, perché mentre il primo atto era molto buffo, pieno di comicità, eccetera, il secondo atto è la tragedia, dove Rugantino muore, e quindi si pensava chissà se il pubblico lo accetta o non lo accetta, e invece è stato veramente bello. Sandro e Pietro, oltre che grandi autori di testi, sono sempre stati anche grandi autori di canzoni. Per il Rugantino inventano quello che rimarrà per sempre uno degli inni alla romanità popolare, Roma non farla stupida stasera, musicata dallo straordinario Armando Trovajoli. Fagli senti che è quasi primavera, mannali meglio grilli per pacri cri, prestami il ponentino più malandrino che c'hai, Roma regge per moccolo stasera. Questa indimenticabile canzone, sulle note della quale Nino Manfredi torna al teatro per interpretare Rugantino, chiamato dalla coppia Giovannini-Garinei, ci mette pochissimo a entrare nella testa e nel cuore di tutti, come ricorda Armando Trovajoli, che ha musicato le parole scritte da Pietro e Sandro. Al secondo ritornello il pubblico cantava già appresso. Il giorno dopo, da Meo Patacca o nel quartiere di Trastevere, con mandolini e chitarre o altro, suonavano Roma non farla stupida stasera. Dopo il Rugantino, Garinei e Giovannini proseguono la loro carriera di coppia per un altro decennio. Ciao Rudy, con un impareggiabile Marcello Mastroianni nella parte di Rodolfo Valentino, Aggiungi un posto a tavola, che viene esportato in mezzo mondo, sono solo due dei numerosi titoli della premiata ditta G&G di quegli anni. La loro storia insieme dura 40 anni e si conclude soltanto quando, nella primavera del 1977, Giovannini muore. Nella chiesa di San Lorenzo, a salutarlo per l'ultima volta, accorrono gli amici e i colleghi di mezzo secolo di vita in comune. E lui, l'inseparabile Pietro, che invece ci lascerà molti anni dopo. C'è un'atmosfera di triste leggerezza quel giorno. Armando Trovajoli, all'organo della chiesa, suona le note di Roma non farla stupida stasera. Giovannini e Garinei hanno segnato indelebilmente non solo la storia del teatro e della televisione, ma anche quella di alcune generazioni di italiani che sono stati accompagnati nella loro vita dalle loro opere garbate, acute e sincere. C'è una frase che spesso viene ripetuta quando si parla di Sandro e Pietro. Dopo di loro è cambiato tutto. Pionieri prima e poi innovatori di loro stessi, verranno sempre ricordati e la loro sigla G&G rimarrà un marchio originale e irripetibile nella storia dello spettacolo italiano. Te crede le posso far da Cicerone, merci beaucoup,